Storiacce di Raffaella Calandra. Per fortuna non mi hanno ancora arrestato, però la sentenza arriverà dovrebbe arrivare ai primi di luglio e spero che riesca, diciamo, a cavarmela. Quali sono i rischi? Dal punto di vista teorico sono seri. Chiunque, secondo il Codice Penale Vaticano, pubblichi documenti e informazioni riservate che mettono a rischio gli interessi della patria, rischia dai 4 agli 8 anni di carcere. Fino ad 8 anni di carcere, in teoria, per aver pubblicato documenti riservati sulle finanze del Vaticano, documenti però mai smentiti. Si avvicina la sentenza al processo Vatileaks 2 e fino a tanto rischiano pure i due giornalisti italiani sotto accusa per aver rivelato notizie interne alla Santa Sede in libri che hanno spalancato una finestra su sprechi, ricchezze e investimenti all'ombra del cupolone dentro un mondo che Papa Francesco sta provando a cambiare. Un processo, questo, in cui in teoria i due imputati sono già condannati, ma davanti a quella corte, alla sbarra, c'è soprattutto la libertà di stampa. Ma forse questo stesso processo e l'enfasi internazionale avuta potrebbe rivelarsi un boomerang per la Santa Sede, ed è per questo che c'è chi non esclude sorprese a conclusione del dibattimento. E allora, dalle mura leonine parte questa puntata di Storiacce nei segreti di Vatileaks. So che molti di voi sono stati turbati dalle notizie circolate nei giorni scorsi a proposito di documenti riservati della Santa Sede che sono stati sottratti e pubblicati. Voglio assicurarvi che questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti. Papa Francesco è determinato e l'ha detto anche pubblicamente. Lui vuole andare fino in fondo con quest'opera di rinnovamento della Santa Sede, di apertura e di pulizia. E non poteva che cominciare dalla gestione delle finanze. Il pontefice venuto dalla fine del mondo, che abita in 50 metri quadri, rifiuta i crocifissi preziosi e predica voti di povertà. Ma un cambiamento così radicale, avviato anche con la creazione della Commissione per le strutture economiche e amministrative al centro ora proprio del processo Vatileaks, non poteva non aprire un incredibile vaso di Pandora, un vaso da cui sono uscite, attraverso i documenti diventati il cuore di due libri e poi del processo, le storie di cardinali residenti in Attici, dove ci si può perdere per la grandezza, di investimenti opachi, di traffici oscuri, comprese le armi, di un uso fantasioso, diciamo così, delle donazioni dei fedeli, dall'8 per mille all'obolo di San Pietro, o ancora dei costi per la beatificazione di qualcuno. Ma è lo stesso Papa ad aver voluto questa norma così restrittiva per punire la fuoriuscita di documenti dopo il primo scandalo Vatileaks, una norma liberticida, secondo uno dei 4 imputati, Emiliano Fittipaldi, autore di Avarizia, che abbiamo incontrato sul palco di Trame insieme allo storico John Dickey. Papa Francesco ha voluto una legge nel 2013, dopo il primo Vatileaks, ricorderete, quando il maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, fu acchiappato con le mani nella marmellata perché aveva rubato, in quel caso sì, rubato alcuni documenti personali di Papa Benedetto XVI. E quando succede questo scandalo, Papa Francesco nel 2013 decide di fare una legge, secondo me, liberticida, cioè chiunque, secondo il Codice Penale Vaticano, pubblichi documenti e informazioni riservate rischia dai 4 agli 8 anni di carcere. Da un punto di vista tecnico io sono già condannato, avendo pubblicato questi documenti, e io sono obbligatoriamente condannato. Quindi è condannato. Come se fosse un po' una sentenza già scritta per loro. Dovrebbe essere già scritta, però secondo me il Vaticano è molto spaventato di quello che è successo. Ha fatto un errore, secondo me, mediatico, nel senso che poi aver inquisito due giornalisti ha creato molto scandalo all'inizio. Se ne è parlato in maniera importante, in maniera significativa. Poi sì, le varie udienze si sono un po' perse, anche perché è complicato seguire le udienze, i processi. Ma nessuno può entrare, soltanto gli accreditati. Se fossero stati due giornalisti inglesi. La Chiesa da noi non è un potere economico e politico, anche sociale, come la Chiesa Cattolica in Italia. Dal punto di vista della legge, una cosa del genere sarebbe impensabile. A proposito di autogol della Santa Sede, in Inghilterra questo caso è stato coperto dai quotidiani, che hanno parlato appunto di un'inquisizione, ci riporta indietro di 500 anni. L'inquisizione è una cosa seria, invece io questo considero questo un processo farsa. Mi stupisce moltissimo che questo processo sia stato voluto da Papa Francesco. Chiaramente se lui non voleva non si sarebbe mai aperto. Probabilmente loro vogliono dare un segnale per il futuro. Di atti segreti, di ricatti, di password, ma pure di baby doll e di corvi si è parlato nelle udienze di questo processo, che sarebbe stato molto interessante seguire e raccontare da cronisti, ma come avete sentito, solo i vaticanisti, i giornalisti cioè accreditati alla Santa Sede, hanno accesso e a turno in quell'aula. E dopo l'inizio così nulla o quasi è stato più raccontato di Batileaks 2, lo scandalo che ha allungato un'ombra sul Giubileo, e se, come osserva John Dickey, questo processo non si sarebbe neanche celebrato, forse, se gli imputati fossero stati due cronisti inglesi, il governo italiano fino ad ora è rimasto a guardare. Vedremo cosa succederà con la sentenza e in caso di eventuale condanna dei due cronisti. Al Premier aveva già mandato un SMS l'altro giornalista imputato, Gianluigi Nuzzi, autore di Via Crucis. Beh sì, in maniera un po' irrituale. Adesso noi abbiamo un Premier che si dice essere molto smart, friendly, e quindi gli ho mandato questo SMS, insomma ricordandogli che ci sono questi due cittadini italiani, giornalisti professionisti, che sono alla sbarra per aver diffuso notizie, documenti riservati su interessi fondamentali dello Stato del Vaticano. Gli interessi fondamentali sono nei due libri, e penso che al di là di privilegi e di malversazioni non ci sia altro in questo mio libro, insomma. Ecco Gianluigi, questo messaggio, diciamo, alla Premier da parte tua, questo perché non c'è stato alcun tipo di reazione, di commento, di presa di posizione né da parte del Premier né da parte dei suoi ministri, e questo anche perché in questo processo è in ballo, possiamo dire, anche la libertà di stampa. Sì, è una cosa abbastanza kafkiana, insomma, qui abbiamo fatto dei libri, io credo che portare a processo questo vuol dire spostare l'attenzione. Via Crucis narra delle storie che sono incredibili, insomma, di un papa che cerca di fare pulizia e che incontra invece una casta che tutela i propri privilegi ed è pronta a tutto pur di non arretrare rispetto a quei cambiamenti tanto annunciati dal Santo Padre. Io ho chiesto in Vaticano notizie se non sono mai stati celebrati dei processi rispetto ai reati che questa commissione d'inchiesta ha trovato, e in Vaticano mi hanno detto che nulla, che loro non pubblicizzano i processi. E beh, insomma, il nostro ha una grande attenzione, magari anche giusto così, ma vorrei che la stessa attenzione fosse riservata per le magagne che raccontiamo. Io trovo assurdo che siamo noi a finire a processo e non quelli che hanno fatto queste magagne che vengono svelate nei libri. Istituita nel 2013, la Commissione per le strutture economiche e amministrative della Santa Sede ha cominciato ora a lavorare, e negli atti raccolti sono venute fuori storie di investimenti in Sud America, di vendite di armi, di case con stanze più grandi di campi di calcio. Sono stati Monsignor Lucio Valleio Balda, segretario della COSEA, e Francesca Ciauchi, membro di questa commissione, i famigerati corvi. Con questa accusa sono stati arrestati dalle guardie svizzere. No, non andite a nome come il corvo, perché c'è un'ammissione del Monsignor Balda che le carte le ha date lui. Io vengo additata come una strega. Parla di processo alle streghe Francesca Ciauchi, la misteriosa PR metà calabrese, metà marocchina, entrati in ruoli e stanze super segrete e delicate. Su segnalazione di Monsignor Balda, e perché? Perché c'era una relazione tra loro? L'attenzione verso questi aspetti, se vogliamo anche più pruriginosi della questione, è stata molto alta nei mesi scorsi. Tutti volevano sapere del baby doll della Ciauchi, si infervora Fittipaldi, dopo che molto è successo, compresa la decisione del cardinale Tarcisio Bertone, il beneficiario di quell'attico diventato simbolo di questo scandalo, che ha annunciato di voler restituire 150.000 euro alla fondazione l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che avrebbe pagato marmi e sfarzi di quell'attico con i soldi delle donazioni. Dietro l'uscita di documenti e la pubblicazione di questi due libri, faide e lotte interne alla Santa Sede, ma anche una domanda. I due giornalisti sono stati strumentalizzati da chi ha passato loro le informazioni? Una domanda a cui Fittipaldi risponde con una riflessione sul giornalismo stesso e con un retroscena sull'uscita dei due libri. So come ho lavorato io, so che ho rispettato tutte le regole deontologiche, non ho rubato nulla. Tutte le fonti che ho compulsato avevano il pieno possesso dei documenti. Se poi avevano un rapporto di carattere legale con il Vaticano, per cui avevano la prova, questo a me non interessa. Il giornalista ha il compito di pubblicare e raccontare all'opinione pubblica tutto quello, tutti i segreti, tutte le notizie che i poteri di ogni tipo non vuole che i cittadini conoscono. Questo è il nostro compito. Diceva Oscar Wilde, tutto il resto sono pubbliche relazioni. Le notizie, il giornalista le ha spesso e volentieri da fonti che quasi mai hanno interessi morali altissimi. Il 99% delle volte le nostre fonti si muovono e ci danno documenti e informazioni per vendetta, perché vogliono sostituire un gruppo dirigente con un altro loro gruppo dirigente e quindi cercano di affossarlo. Ma questo il giornalista non deve interessare, può farsi un'idea, cercare di parlare con più fonti possibili di vari gruppi diversi. In Vaticano ci sono eserciti l'un contro l'altro armati. È assolutamente vero quello che tu hai appena raccontato, quindi ci sta raccontando anche un po' dei retroscena, delle faide anche che ci sono in Vaticano e che chiaramente favoriscono anche l'uscita di alcuni documenti, perché è ovvio che se ci fosse tutto un gruppo compatto in una stessa direzione, nessuno avrebbe, diciamo, interesse a far uscire certe cose. Ma tu sapevi che anche una serie di documenti venivano raccolti anche dal tuo coimputato, cioè il Gianluigi Nuzzi? No, il fatto che i due libri siano usciti contemporaneamente il 5 novembre ha dato la stura a una serie di ipotesi ovviamente complottistiche all'interno del Vaticano e non solo. Non è stato casuale, perché Gianluigi mi ha fregato, perché io lavoravo a questo libro da un anno e mezzo. Io non ho avuto la fortuna di Gianluigi di avere tutte le informazioni da un'unica fonte, lo posso dire, perché è la stessa fonte, Valle Cobalda, che ha detto che ha dato 95 password. Ma io ho dovuto prendermi documento per documento da fonti di ogni tipo. Quando io dovevo uscire nel 2016, l'agente di Nuzzi scopre, perché io avevo fatto le prenotazioni in libreria, telefona e mi dice: ma tu hai un libro in uscita? No, perché forse anche noi qua là. Io a quel punto capisco che c'è un libro di Nuzzi in giro, capisco anche che evidentemente c'è stata qualche fonte che ha fatto il doppio gioco. A quel punto io faccio una corsa, le mie vacanze finiscono lì e riesco a consegnare il libro quando più o meno immaginavo che uscisse Nuzzi. Tutto questo è accaduto anche perché hanno arrestato due presunte fonti, quindi loro hanno anche fatto una pubblicità enorme. Secondo me però questa pubblicità l'hanno anche fatta perché a un certo punto di tutte le questioni, ossia quanto è ricco il Vaticano, quanto ancora le rivoluzioni di Papa Francesco per una chiesa povera e per i poveri è ancora utopistica, tutte queste notizie a un certo punto sono state messe in secondo piano quando è iniziato il processo. Da qui ripartiamo allora nella seconda parte di Storiacce, dentro il labirinto delle finanze vaticane, alla vigilia della sentenza del processo VatiLeaks 2. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Storiacce. Sembra che un monsignore alla fine sia normale che scopi. Beh, in teoria no, però insomma. Ma tu ti sei trombata balda. Guarda, se io avessi voluto tradire mio marito, certamente non l'avrei fatto con un prete a cui non piacciono le donne. Quindi assolutamente no. Quindi tra lei e Balda erano solo rapporti professionali? Rapporti di amicizia, era una persona che mi faceva pena. Si discute di questo? Voyeurismo, vendette, ricatti e segreti dietro le storie di VatiLeaks? In realtà il tema è molto serio, perché in ballo c'è la gestione delle finanze del Vaticano, dello IOR, che Papa Francesco aveva inizialmente detto di voler abolire, delle donazioni dei credenti, dell'interesse, insomma, di 1,5 miliardi di cattolici verso quello che succede dentro la Santa Sede. E quindi forse lo sguardo dal baby doll di Francesca Ciaochi andrebbe allargato a quello che succede dentro quelle mura, come abbiamo sentito nella prima parte di Storia piace, e a quello che succede dentro l'aula del processo, dove pure due giornalisti italiani sono a giudizio. E se ci fosse una condanna per un reato per cui rischiano fino ad 8 anni? Uno dei cronisti imputati è Gianluigi Nuzzi, per gli atti pubblicati in Via Crucis. Però in appello e in Cassazione, ricorrerò in tutti i gradi di giudizio in Vaticano. Dopodiché vediamo se loro chiederanno l'estradizione al mio paese. Io sono un cittadino italiano, dove c'è l'articolo 21 che dice che c'è libertà di espressione, di pensiero, c'è una legge a tutela della libertà di stampa. Noi siamo una democrazia, il libro non ha ricevuto una smentita. Io poi ovviamente sono andato in Vaticano perché non avevo nulla da nascondere, quindi sono andato a questo processo perché non credo che, al di là del caso del singolo, i giornalisti non devono essere intimiditi. Domani che un giornalista trova dei documenti sul Vaticano, cosa fa? Non li pubblica perché ha paura di finire il processo? Ecco, ma appunto, quello, che cosa rappresenta questo processo? Quello è un avvertimento, un monito, è un monito anche ai giornalisti. Se avessimo scritto delle cose sbagliate è giusto fare ammenda pubblica, ma io mi chiedo, un giornalista un domani cosa avrà? Avrà timore e tremore perché si finisce il processo? Per delle cose vere? Ma insomma, questo dal Watergate in poi nessun paese al mondo è stato mai discusso. Io posso capire che ci sia una rabbia per chi ha eventualmente ovviamente diffuso i documenti, ma quello è un problema loro interno, ma i giornalisti italiani hanno fatto il loro mestiere e questo va tutelato. Potrebbe rappresentare una sorta di precedente, appunto, rispetto a quello che potrebbe esserci anche in futuro. Ma da cronista non hai un po' l'impressione che comunque non permettano la necessaria trasparenza e anche una libera copertura mediatica? Non c'è pubblico, i giornalisti ammessi sono soltanto quelli autorizzati. E... il clima che si respira da dentro è abbastanza surreale, insomma. Nel rispetto di una corte che sicuramente sono dei bravissimi professori, delle persone di diritto, perché poi sono cittadini italiani. Cioè, la cosa surreale è che questi magistrati, la corte è formata da cittadini italiani che giudicano cittadini italiani su uno stato estero, già questo è bizzarro. Poi sono magistrati non scelti con un concorso, ma nominati. Poi vai lì e non puoi sederti vicino al tuo avvocato, non puoi interagire durante l'udienza, stare su sta panchetta. Ci sono signor tutto vestito di nero. Mio figlio mi ha chiesto se era un soldato ninja. Io gli ho spiegato che invece era l'ufficiale giudiziario. Il reato è quello di divulgazione di atti fondamentali dello Stato. Ma questo, insomma, racconta Via Crucis, racconta la casta in Vaticano, che è una casta che c'è sempre stata e che si oppone oggi alle riforme di Papa Francesco. La Via Crucis è quella che sta facendo il Papa e che io francamente mi eviterei anche di fare. Un processo alla libertà o meno di pubblicare notizie riguardanti la Santa Sede. Ecco che cos'è di fatto il processo VatiLeaks 2. Ma è innegabile l'interesse pubblico di conoscere, ad esempio, come vengono usate le donazioni per l'obolo di San Francesco o di sapere delle varie società immobiliari, degli appartamenti e delle ricchezze sparse della Santa Sede, eppure dell'operazione che Papa Francesco sta facendo per rinnovare tutto. Un'operazione lenta, complicata e ostacolata, ammette lo storico John Dickey. Vedo molto molto difficile, cioè una riforma veloce, cioè ci vorranno 10 papi riformatori come Francesco per risolvere una situazione del genere, e aiuta a capire la difficoltà che deve affrontare una parentesi storica. Le finanze del Vaticano nella forma attuale risalgono al momento dell'Unità d'Italia. Arriva la breccia di Porta Pia, l'Italia toglie tutto questi territori al Papa e il papato deve inventarsi delle fonti di reddito. Da lì che parte il culto del primo Papa carismatico, Pio IX, e aiuta soprattutto ad attirare fondi. Già alla fine dell'Ottocento l'America è molto importante per le finanze del Vaticano e i soldi dall'America, l'obolo di San Pietro, appunto una vecchia istituzione che viene riportata in auge dopo l'Unità d'Italia, e soprattutto la figura del Papa. Quando nel 1929 finalmente si risolvono i problemi, cioè il rapporto spaccato tra potere della Chiesa in Italia e potere dello Stato italiano, sto parlando ovviamente dei patti lateranensi, Mussolini compra il silenzio del Papa con un'enorme mazzetta, possiamo dire, un'enorme quantità di soldi. E da quel